per passare ad animali con le orecchie aguzze, come i lupi per esempio, sono tempi durissimi per loro, almeno nella area alpina. Sono considerati animali protetti in tutti i paesi della zona, in Italia, in Francia, in Svizzera, in Austria, in Germania e Slovenia. Questo stato è sancito da svariate direttive comunitarie, ma di fatto, leggo, fuori dall'Italia non li protegge nessuno. Anzi, se quelli italiani s'azzardano a varcare i confini, li prendono subito a fucilate. Se ne è rammaricato in un'intervista del 7 novembre scorso il ministro Pecoraro Scanio, che ha poi sollevato il problema giovedì all'appuntamento biennale dei ministri firmatari della Convenzione delle Alpi. Bisogna uscire al più presto, ha dichiarato il popolare leader dei Verdi, da una situazione surreale. L'Unione Europea finanzia la salvaguardia del lupo e i paesi membri dell'Unione lo uccidono. Così non va. Non accetteremo che si ripeta la vicenda dell'orso bruno che l'Italia era riuscita a proteggere e che appena messo piede in Baviera è stato fucilato. Non sappiamo come sia andato l'appuntamento ministeriale, ma il problema in effetti esiste, non si può negare che esiste. Riguarda soprattutto la Francia, che condivide con l'Italia una popolazione transfrontaliera di circa 100 lupi, che dalla nostra parte del confine non si possono toccare nemmeno come un dito, mentre dalla loro ne è consentito l'abbattimento qualora siano pericolosi per gli allevamenti, cioè sempre. Ma coinvolge anche la Svizzera, che dell'Unione Europea non fa parte, sul cui territorio abitano non più di 10 esemplari di lupi, ma è impegnata lo stesso a proteggere la specie con una convenzione, la Convenzione di Berna. Eppure, quando in una valle di confine ne compare uno in più, i bravi villici, forti dell'esercizio del tiro a segno a cui si sottopongono ogni anno in base alle leggi militari del loro paese, impugnano il fucile e chi si è visto, si è visto. Ricordo anch'io gran parlare che si fece un paio d'anni fa in tutto il Canton Grigioni sul caso di un lupo sospetto avvistato in Val Bregaglia. E i verdi locali, perché ce n'è qualcuno anche lì, volevano salvarlo. Ma la maggioranza fu inflessibile e il poveraccio finì impallinato. L'ultimo episodio del genere è stato registrato nella valle di Goms, al confine con l'Ossola, non più tardi dello scorso 27 ottobre. Certo, non si può negare che il lupo abbia fin dai tempi antichi una pessima stampa. Divora gli agnelli innocenti accusandovi di intorbidirgli le acque anche se gli inermi sono collocati più a valle, tratta malissimo Cappuccetto Rosso e la sua povera nonna, si ostina a tendere trappole e insidie ai 3 porcellini. Insomma, assume una quantità di atteggiamenti deprecabili, anche se in fondo logici e naturali, in un animale che in definitiva è un carnivoro predatore, anzi è il più grosso carnivoro predatore, a parte l'uomo e subito dopo l'orso, che frequenta il nostro continente. Per cui da secoli gli danno la caccia, e non senza successo, visto che lo hanno ridotto al rango di specie in via d'estinzione, meritevole quindi di venire protetta. Il paese che ne conta di più, vi sembrerà strano, è proprio l'Italia, che ne ospita 500-600 esemplari sull'Appennino, ben alla larga delle doppiette straniere. Il problema è che hanno una certa tendenza al nomadismo, si ostinano a risalire da penisola fino alle Alpi, sconfinano e si mettono nei guai. Ora, io non so perché i francesi ce l'abbiano tanto con quei nobili animali, ma immagino che le loro motivazioni non siano molto diverse da quelle degli svizzeri, i cui cantoni spendono fior di franchi per finanziare l'allevamento e la pastorizia ad alta quota allo scopo di mantenere in vita quelle attività che tanto contribuiscono a impedire il degrado cui il territorio andrebbe incontro se fosse abbandonato o lasciato totalmente al turismo. I lupi che scemi non sono, dai turisti si tengono alla larga, mentre sulle pecore per necessità di alimentazione un pensierino devono farcelo. Ed è vero che l'Unione Europea rimborsa gli ovini abbattuti, ma i governi cantonali no. E poi se c'è un carnivoro attivo in zona, hai voglia rimborsare. Specie se il carnivoro in questione, come appunto il lupo, è schifitosissimo. Si ciba soltanto di parti scelte di prede macellate personalmente di fresco, per cui gli serve in sostanza una pecora al giorno. Insomma, tutti hanno le loro ragioni e bisogna tenerne conto. In Italia, come è noto, del degrado dell'ambiente non importa niente a nessuno. La pratica dell'allevamento del bestiame ad alta quota è tenuta dai valvigiani in molto minor conto che la partecipazione ai dibattiti televisivi sulle mamme assassine, e quindi possiamo permetterci di categorizzare i nostri 700 lupi come povere creature in pericolo che vanno protette e salvate. Altrove evidentemente li vedono come bestiacce pericolose da cui proteggere le amate greggia. E hanno ragione tutte e due, così va il mondo, e in attesa della fase in cui lupi e agnelli vivranno insieme in armonia, un signore che ho incontrato l'altro ieri sotto casa mi ha donato un opuscoletto a colori in cui si assicura che manca poco, in attesa di quella fase non possiamo far altro che rassegnarci a questa dicotomia di valore. Gli estimatori dei lupi potranno consolarsi, in parte, pensando che l'uso transalpino di prenderli a fucilate, pur con gli ovvi inconvenienti che comporta, è in un certo senso più rispettoso della loro identità culturale di nobili predatori che quello di chi li vuole a tutti i costi proteggere. E poi benedette bestie dovrebbero saperlo anche loro che nell'Europa di Schengen attraversare le frontiere senza autorizzazione non è pratica esente da rischi.